Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccomi qui. Come ogni giorno entro nelle vostre case di prima mattina, sono un po' la vostra sveglia. Comunque io ne sono onorata, perché questa idea mi fa sentire una di famiglia. Mi piace molto condividere con voi questo momento, perché il risveglio è un momento magico che condiziona poi spesso al resto della giornata. Ci sono giorni che iniziano bene, altri che fanno fatica a decollare, altri che proprio non partono. Ma da che cosa dipende un buon risveglio? Quali sono gli elementi chiavi, le buone pratiche di benessere, le sane abitudini per svegliarsi bene la mattina e iniziare, come si dice, col piede giusto e bene la giornata? Stamattina si è svegliato con noi Daniel Lumera, scrittore e formatore, esperto nelle scienze del benessere e della qualità della vita, nonché riferimento internazionale nel campo della meditazione. Ciao Daniel. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora Daniel, già che sei sveglio per noi, come ti svegli tu? Quali sono le tue abitudini relative al benessere per iniziare bene la giornata? Allora, la prima cosa che faccio appena apro gli occhi ogni mattina è ringraziare. E poi subito dopo bevo un bicchiere di acqua calda. Per me ci sono quattro elementi ogni mattina imprescindibili al mio risveglio, che sono una formula per il benessere psicofisico e che permettono di iniziare molto molto bene la giornata. Prima di tutto un breve risveglio corporale per riattivare il corpo, poi una pratica di respirazione consapevole che non può mai mancare per me, che riattiva l'energia vitale, poi la pratica della meditazione per portare lucidità, chiarezza e consapevolezza alla mente, e infine appunto l'elemento che ho detto prima, cioè la gratitudine. Anche se personalmente la mia disciplina meditativa si estende per diverse ore, io non credo assolutamente che ci sia bisogno di un'intensità così profonda. Basterebbe ritagliarsi 20 minuti, 30 minuti ogni mattina per svolgere queste quattro sane abitudini, quindi risveglio corporale, respirazione consapevole, meditazione, gratitudine, e per me questo è il miglior tempo che possiamo investire sulla qualità della nostra vita e sul nostro benessere. Anche perché gli effetti collaterali sono molto interessanti, come dimostrato da ampia letteratura scientifica, quindi riducono i processi di infiammazione, rallentano l'invecchiamento, riducono lo stress, aumentano e migliorano il tono dell'umore, perché agiscono in profondità su ansia e depressione, ad esempio, e potenziano anche le abilità cognitive, come ad esempio la memoria. Quindi questo è un po' il mio risveglio rituale di ogni giorno. Senti Daniel, possiamo stare molti giorni senza mangiare, meno di una settimana senza bere, ma solo pochi minuti senza respirare, e questo chiarisce la scala delle priorità per la sopravvivenza: ossigeno, acqua e cibo. È per questo motivo che le tue giornate iniziano sempre con una pratica di respirazione consapevole? Che benefici ottieni? Allora, diventare pienamente consapevoli del proprio respiro ci ancora al presente, e questa presenza per me è la chiave, questa consapevolezza è la chiave di tutto il benessere. Noi respiriamo circa 21.600 volte al giorno, una media di 15-30 volte al minuto, e ogni singolo respiro alimenta la combustione di ossigeno e glucosio e quindi produce l'energia necessaria a ogni processo vitale, sia fisico e sia mentale ed emozionale, perché nonostante molte persone credano che sia l'attività fisica a necessitare della maggior parte dell'energia vitale, non è così. I maggiori consumi di energia vitale sono destinati ai nostri processi mentali, quindi imparare a respirare consapevolmente ci permette prima di tutto di regolare la tipologia di respiro e produrre effetti, tanti effetti profondamente benefici e salutari su tanti piani: corpo, emozioni, mente. Quindi una respirazione consapevole e profonda, lenta, naturale, ritmica, consuma meno energia, quindi fornisce una quantità maggiore di ossigeno a cellule e organi, aumenta l'energia vitale e alla fine ci permette di vivere più sani più a lungo. Infatti se osserviamo la natura possiamo notare che tutti gli animali più longevi hanno un respiro molto molto lento, più lento del nostro. Quindi, Daniel, regolare la nostra respirazione in maniera consapevole ha degli effetti positivi sul nostro corpo. Esistono anche degli studi scientifici che approfondiscono e spiegano proprio l'impatto della respirazione, vorrei dire anche del suo ritmo, sulle emozioni e sulle abilità cognitive. È così? Ci sono tanti studi, in effetti. Uno, ad esempio, interessante dell'Illinois del 2016, che è stato pubblicato nel Journal of Neuroscience, ha riscontrato, ha dimostrato che alcune funzioni cerebrali possono essere condizionate dalle fasi della respirazione. Quindi i ricercatori hanno dimostrato che il ritmo respiratorio, e in particolare la fase di inspirazione col naso, è in grado di generare attività elettrica nel cervello, in questo modo incidere su, per esempio, memoria o su emozioni quali la paura. La fase dell'inspirazione consapevole ha un impatto principalmente su tre aree del cervello, quindi l'ippocampo, che è responsabile della memoria, l'amigdala, il centro emozionale, e poi la corteccia piriforme, che invece controlla il senso dell'olfatto. Quindi saper regolare consapevolmente la respirazione e farlo ogni giorno, come è stato dimostrato, quindi ha tantissimi effetti importanti sulla qualità della nostra vita. Beh, adesso a questo punto dobbiamo iniziare. C'è un esercizio semplice, Daniel, che puoi consigliarci e che può essere seguito ogni mattina per partire bene. Deve essere molto facile, così io lo imparo subito. Allora, più facile di così non è possibile. L'esercizio consiste nel come fare praticamente respirare, facile come respirare. Esattamente, anzi facciamolo ancora più semplice, fare 21 respirazioni. Questo sembra molto facile, e lo è, però ci sono dei segreti, perché si inspira dal naso e si espira dalla bocca. La profondità e il ritmo di queste 21 respirazioni dipendono e variano da persona a persona, perché ognuno si autoregola, perché l'obiettivo deve essere chiaro, è aumentare l'ossigeno e l'ossigenazione del cervello e riattivare la circolazione e non andare in iperventilazione, ma comunque bisogna aumentare notevolmente l'apporto di ossigeno, e quindi le respirazioni devono essere profonde e ritmate. Si inspira e si espira a pieni polmoni, mettendo ed emettendo la massima quantità di aria possibile. Si deve però associare, questo è il segreto, ogni respirazione a una intenzione corretta. Quindi inspirando dal naso entra vitalità ed espirando dalla bocca lasciamo andare pesantezze e tensioni. Questo per 21 volte, 21 respiri completi. Progressivamente si aumenta il ritmo e la quantità di aria che mettiamo nei polmoni, e alla fine della pratica è importante invece passare almeno un minuto in silenzio, in completa attenzione e ascolto, con gli occhi chiusi, rigenerandosi, e poi iniziare la giornata in questo modo. Guarda, si dice sempre domani, oggi provo. Senti, a proposito di oggi, in questi giorni è uscito su Audible Benessere H24, che è un percorso audio guidato proprio con la tua voce, che hai creato insieme ad Emiliano Toso, biologo cellulare e raffinato pianista. È un'esperienza guidata che unisce respirazione consapevole, visualizzazione, meditazione, musica, e ce lo vuoi raccontare? Ti vuoi dire in che cosa consiste e perché ritieni così importante in questo periodo integrare questo genere di pratiche guidate? Allora, Benessere H24 è un progetto bellissimo che permette di integrare nella vita quotidiana abitudini ad alto impatto su salute e qualità della vita. È un quando c'è il 24, guarda Daniel, quando c'è il 24, il numero, già, no? È tutta un'altra musica, quindi già una cosa buona. In realtà sono 20 tracce che abbiamo registrato, dividendole in 4 sezioni, quindi la sezione della mattina, che serve per rigenerare l'energia vitale e produrre un inizio di giornata ricco di vitalità, di gratitudine, di centratura. Poi c'è la sezione del giorno, che invece è ideale per uno stato di focus, di presenza, di concentrazione, di chiarezza interiore, che sono importantissime abilità cognitive che servono durante il giorno. Poi c'è la sezione della sera, che è pensata invece per concedere alcuni minuti per rilasciare le tensioni del giorno, i pensieri, le preoccupazioni, entrare in uno stato di leggerezza, di relax, di pace profonda. E infine abbiamo finito l'ultima sezione, che è molto importante proprio per ciò che è successo in questo periodo, che è la sezione della notte, che è creata appositamente per guidarci in un profondo rilassamento in una liberazione della mente, prepararsi per un sonno ristoratore, dormire bene, quindi entrando in uno stato di silenzio, un ritmo del riposo, del buon riposo che molte persone hanno perso. Grazie a Daniel Lumera che è stato con noi, buona giornata. Buona giornata anche a voi. Chiacchierando e riflettendo è arrivato il tempo di fare la colazione, perché in questo periodo abbiamo probabilmente riscoperto l'abitudine di una prima colazione a casa che dovremo portare avanti anche nella fase 2 la mattina, come abbiamo detto, allora in bocca, anche se si parla di nutrizione e la ricerca scientifica ormai è concorde nel dire che l'effetto metabolico di una caloria mangiata a prima colazione è diverso da quella della stessa caloria mangiata a cena. Ne parliamo negli ultimi minuti di trasmissione insieme a un amico della nostra trasmissione che è tornato a trovarci, il dottor Gabriele Piuri, medico esperto di nutrizione a Milano. Dottor Piuri, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. Dottore, con lei chiudiamo in bellezza. Intanto, perché si parla, se si parla di dieta, è così importante fare la prima colazione? Ci ricorda appunto i vantaggi di iniziare la giornata con questo primo pasto della giornata così equilibrato e nutriente? Come dicevi tu, la parte legata alla prima colazione in realtà ha un effetto metabolico completamente diverso a parità di chilocalorie rispetto al resto della giornata. E se prima, 20 anni fa, si ragionava sulle diete soltanto sul fatto di controllare le quantità, sempre di più si sta scoprendo che la prima colazione e in generale il modo in cui mangiamo ha degli effetti completamente diversi. Tutto quello che mangiamo al mattino e ancora meglio entro un'ora dal risveglio viene tutto quanto trasformato in energia e va a attivare il metabolismo, come a dire al nostro organismo di consumare di più. Diversamente, tutto quello che andiamo a mangiare verso sera, dopo le 5 del pomeriggio, viene messo di riserva per il giorno dopo. Alcuni studi. Quindi approfittiamo. Dottor Piuri, come a dire, cogliamo l'attimo. Una colazione che deve essere ben bilanciata, ci ricorda che cosa portare a tavola? È importante portare a tavola sicuramente la parte legata ai cereali integrali, della frutta, il tè, il caffè che fanno parte della nostra tradizione, e in più anche una componente legata alle proteine. Le proteine non vuol dire per forza andare a mangiare la carne, che non fa parte del nostro modo di fare prima colazione, sì. Ma basta ad esempio lo yogurt, potrebbe essere la parte legata alle crepe, potrebbe essere la parte legata alla ricotta, sono tutti quanti aspetti. O per chi invece fa ancora più fatica, la parte legata ai semi oleosi, quindi ad esempio muesli con del latte. L'altro aspetto importante è capire anche come modi diversi di abbinare la prima colazione e effetti diversi. Sì. Io faccio prima colazione con una componente proteica, vado a dire al mio organismo di fare muscolo, mentre se prendo e mangio quello che mi serve come proteine soltanto a cena, quelle proteine vengono trasformate in energia e non mi servono non vanno a fare muscolo e non mi aiutano a sostenere la massa muscolare e di conseguenza il metabolismo. E questo è il segreto allora di Braccio di Ferro, mangiava le proteine, non solamente gli spinaci, come ci hanno fatto intendere le mamme per anni, nel momento giusto anche della giornata. Dottor Piuri, buona colazione anche a lei, ci sentiamo prestissimo, grazie per essere stato con noi. Grazie a Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, ad Alessandro Marco Tugli in assistenza e a Laura Vanossi in redazione. Io torno a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata.